lavoro che ti faccio in colui che reagisce. Perché è vero, è capitato uno che ha fatto la domanda e tutto, però non l'hanno approvato pure per fare il suo particolare. E chi dovrebbe entrare in malizia? Ma è già detto. Marco, me l'ho fatto volare l'altro giorno. Di nascosto, stava caricando verso l'elicottero, non so. Mi deve saccare della correnti, aprire delle comode, si può far volare. Ho detto con l'elicottero in mano, io, Marco, che tu diavolo. Progetto di cosa? Dentro casa? Sì, ma poi se non lo sei pilotato, ti arriva la faccia, ti taglia la faccia, ma sai quanto sei potente delle lì. Infatti adesso non ascolta, telecomando una parte, come si fa con la pistola, telecomando una parte e dall'altra tengo il coso per farlo volare. È pericoloso, grazie della chiacchierata. Dai, ci sentiamo domani, se possibile. Io chiudo. Ciao, così andrà. Un pochino. Vabbè, chiudiamo i battiti, anche se non mi stanco. Ci sentiamo, tanto buonanotte. Salutami a Pirino. Scappa, dopo un bel po' di tempo ci siamo. Un po' di più di giorno, come esageriamo. Fatto. Ciao. Ciao, buonanotte, a me lo ti riposo, grazie.